Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. A vedere qui africani con i blue jeans, non ci sono i blue jeans in Africa. Ma chi ti ha detto che ci stanno i blue jeans in Africa? Eh? La rete è stata molto chiara, noi dobbiamo fare l'Africa come piace alla gente. Bambini poveri che balze gonfie, povertà e povertà. Ah, povertà, povertà, povertà, ma quanto ci costa sta povertà? René, tu mi fai piano infarto a me. Ma chi cazzo è? Questa naturalmente è pura fiction, si tratta di Boris, la serie della Fox, dove questi scalcinati produttori devono realizzare un programma che dia l'aspetto pietistico dei paesi in via di sviluppo, della povertà, dei bambini poveri, dei bambini gonfi, una cosa detestabile, orribile, ma naturalmente, ripeto, è fiction. Invece qualcos'altro sembra che si avvicini più alla realtà. È il programma Mission, che andrà in onda su Rai 1, si pensa che andrà in onda su Rai 1 dal 4 dicembre, che è, diciamo, un docu-reality, non so bene come spiegarlo, è un programma di cui si parla, diciamo, da prima dell'estate, che dovrebbe in qualche maniera rappresentare anche l'idea, appunto, delle necessità dei paesi in via di sviluppo, dei soccorsi umanitari, attraverso la griglia onnicomprensiva del reality. Con il reality si racconta tutto, ultimamente abbiamo sentito, si parla anche di cultura, esiste un talent show che passa attraverso l'idea che i casi umani possono essere anche scrittori e autori di libri. Si tenta di applicare la formula comunque del reality, perché la chiave espressiva è quella dell'isola dei famosi, vengono mandati dei VIP in territori disagiati dove svolgono delle operazioni che normalmente si pensa che loro, le loro delicate manine, non possano compiere, e il risultato e anche il concreto ricavato della solidarietà delle persone che guardano emotivamente, secondo questa cosa, andrà a favore di chi non si sa, proprio qui la polemica. La cosa bella di oggi è che abbiamo unito, sono stati uniti due progetti, perché allo stesso tempo, sempre a Gangala, stiamo facendo una formazione per gli insegnanti. Quindi ci sono insegnanti di 5 scuole diverse. Insegnanti del luogo. Esatto, di 5 scuole diverse che stanno facendo la formazione a Gangala. Quindi le donne oggi e tu insieme a loro cucinerete per gli insegnanti che stanno facendo la formazione. Okay. Beh ragazzi, adesso io un attimino, nel senso che mi piglio anche un po' in giro, però... Cioè, non è che siamo abituati tutti i giorni a fare una cosa così. Questa è Paola Barale, naturalmente vestita a strafighetta, con gli occhiali trendy, con gli orecchini, con il vestito senza nemmeno una piega, con un grosso palo in mano che pigia dentro un mortaio, circondata da garrule signore in abiti tradizionali africani che spiegano a lei come si possa capare la verdura appena raccolta, farla bollire più volte perché si tolga l'amaro dalle foglie, come si pesti per fare non so quale cosa, e questo è molto carino. Questa è una parte di una anticipazione, di un fotogramma rubato, di una volgare, mistificante e subdola maniera per denigrare questa grande idea che circola in rete da qualche giorno. La messa in rete è un personaggio di cui si sa veramente pochissimo. Fulvio Beltrami è un blogger, è una persona che si occupa comunque problemi legati ai paesi in via di sviluppo, che attraverso un suo blog fa girare queste immagini. Queste immagini che non sono state nemmeno rivendicate come immagini montate dai produttori di questa serie, che però queste immagini fanno vedere chiaramente quello potrebbe essere un senso, almeno un'idea di quello che sarà questo reality umanitario. Ecco la Barale, poi si vede anche Emanuele Filiberto di Savoia, che il giovane principe, anche lui strafighettino, se ne va in un altro posto in Africa dove gli viene dato il pennello, e con un grosso pennello comincia, dopo aver naturalmente fatto un muratore, a verniciare una parete. Qui vi farò vedere dove stiamo riabilitando una scuola, è un lavoro importante, metti questo. Vieni che ti faccio vedere l'interno, come vedi è una bella struttura fatta, come dire, al meglio possibile con i materiali che abbiamo disponibili in loco. E io qua cosa dovrei? Adesso ti spiego. Vedo cemento. Vedi che adesso qui stanno facendo l'intonaco delle pareti. Se non c'è un buon intonaco nel giro di un paio d'anni qui. E allora qua faremo le finestre. Finestre? Praticamente dove sono quello che i francesi chiamano il crepissage. 800240024, cosa ne pensate? Qualunque aspetto della realtà, qualunque problema, qualunque complessità degli esseri umani può essere rappresentato in maniera coerente, in maniera etica, non semplicemente mirando allo spettacolo anche attraverso la griglia del reality. Quello noi ci stiamo chiedendo, e di questo noi stiamo parlando questa mattina. Abbiamo messo insieme quelle che sono gli interlocutori e possono darci un'idea di cosa realmente sia. Abbiamo iniziato il programma in maniera lievemente ironica, però vogliamo capire esattamente di cosa si parli, perché di questo mission se ne parla da tanto tempo. C'è stata una presa di posizione molto decisa del presidente Boldrini, che agosto ha detto che in realtà non corrispondeva a quello che lei pensasse, quando la RAI gli aveva detto avrebbe fatto un'operazione su appunto le organizzazioni che si occupavano dei paesi in via di sviluppo, di necessità, di migranti, via dicendo, pensava un'altra cosa. Quando ha visto che si trattava di un reality, dice il servizio pubblico è meglio che non fa una cosa del genere verso i rifugiati, verso la dignità dei rifugiati. E poi ci sono state prese di posizione molto decise. Vi faccio, sentiamo subito quello che è il punto di vista di Laura Iucci. Laura Iucci, buongiorno. Buongiorno a lei. Laura Iucci è il funzionario della UNCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che diciamo è fra gli organismi che seguono, che hanno patrocinato, che appoggiano questo tipo di operazione televisiva. È la persona che accompagna nel video che sta girando ormai in rete, in tutti i blog, in tutti i social, Paola Barale. Qual è il suo punto di vista? È un'operazione malvagia fatta per screditare qualcosa che ha un senso? Secondo lei, secondo il suo punto di vista, visto che ci ha messo la faccia? Certo, io innanzitutto vi ringrazio per averci dato la possibilità di esprimere il nostro punto di vista e con grande piacere che condivido la mia esperienza personale, visto che sono la persona che ha accompagnato loro in questa esperienza congolese che abbiamo visto in questi fotogrammi. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che si tratta di una strumentalizzazione, perché decontestualizzare diciamo la narrazione che andiamo a fare in quello specifico contesto attraverso tre fotogrammi appunto rubati e pubblicati non è un montato, diciamo, non è chiaro che è un quelle cose sono veramente successe, le vedrete nella puntata che verrà. Ma è vero che sono dei set ricostruiti come fosse una specie di fiction in cui mettete le africane ben vestite, tranquille, allora, divertenti. È ovvio che lei sa perfettamente che se si vuole distruggere qualcosa ci vuole poco. Scegliere dei fotogrammi che sono stati scelti molto accuratamente dalla persona che li ha mandati in onda senza spiegare il contesto. In quella situazione specifica ci tengo a sottolinearlo. Paola, io ho accompagnato Paola a visitare un progetto di cooperazione rivolto a donne vittime di violenza sessuale. Non sono figuranti, non sono donne ben vestite, sono donne che per fortuna hanno ritrovato una dignità e una normalità attraverso un percorso di riabilitazione che grazie agli interventi della cooperazione hanno di cui hanno potuto beneficiare. È un ambiente sereno, perché così deve essere. È un ambiente sereno perché oggi le donne stanno riconquistando la loro normalità in quanto beneficiarie di un progetto di generazione di reddito e quindi hanno creato questo piccolo ristorante. Detto questo, secondo lei qual è il senso di tutto questo? La Barale, che non ci azzecca anni luce con questa realtà, in realtà va lì perché poi il finale cos'è? Raccogliere soldi per destinarli a delle attività che abbiano un senso? Raccogliere fondi è uno degli obiettivi, ma sicuramente non è il prioritario. Per noi l'obiettivo prioritario è dar voce a queste persone, riaccendere un faro sulle crisi dimenticate. Nessuno sa quello che sta succedendo in Congo. Sulla scia emotiva si accendono i fari quando ci sono le emergenze. Ma perché hai scelto i tipici farlocchi del reality, mi scusi, come Emanuele Filiberto, la Barale, per essere testimonio di questa roba? Lo domando perché me lo domando anch'io. Potevano essere persone che avessero un pochino più di attendibilità. È il meccanismo in sé che mi sembra poco convincente. Assolutamente. Innanzitutto le voglio specificare che Mission non è un reality show, come si continua a scrivere, nonostante le molte smentite ufficiali sia da parte della RAI che da parte nostra che di Intersos. Noi siamo stati sempre contrari e totalmente contrari alla spettacolarizzazione del dolore. E se il programma fosse stato concepito in questo modo, noi non avremmo assolutamente accettato di collaborarvi. Come ha detto il direttore Leone in più occasioni, Mission è uno dei primi esempi di social TV che porterà nelle casse degli italiani il tema dei rifugiati, i loro problemi, la loro dignità e quindi vedrete, io veramente vi invito a guardare il programma, vedrete che si tratta saremo di in prima fila, si figuri. Certo. E siamo molto contenti di questo, si tratta di documentari che abbiamo girato in vari paesi del mondo per raccontare le varie realtà dei rifugiati, di emergenza, di post emergenza, situazioni di rifugiati, quindi di persone che hanno superato i confini nazionali, situazioni di sfollati interni, come il caso della Repubblica Democratica del Congo e quindi delle immagini che vedete in questi fotogrammi presentati. Non la voglio interrompere, visto il tempo che so, Laura Iucci, c'è la prima telefonata, Ariela, un'ascoltatrice che chiama. Ariela, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo intervenire in quanto io sono un ex responsabile di campi di rifugiati del Darfur in Chad. l'ho fatto, mi sente? La sento benissimo. Ah, grazie. L'ho fatto per moltissimi anni. L'idea di mettere queste persone che tutti i giorni soffrono in modo indicibile, non hanno soprattutto prospettive di vita, perché quelli che si trovano nei campi di rifugiati, per esempio in Chad, sono 10 anni che si trovano là dentro e per il momento non possono neanche uscire, possono soltanto trasferirsi da un campo all'altro. Questo modo di presentare la loro vita come se fosse un teatro è veramente vergognoso. Questo è il mio modo di pensare. È chiaro che io sono un operatore umanitario, quindi i soldi sono importantissimi per noi perché servono per arrivare ad avere dei risultati con loro. Ma ci quindi sono lei Ariella, mi scusi, lei non giustifica nemmeno l'aspetto spettacolarizzante, indubbiamente è una concessione al desiderio e al gusto del pubblico a TV generalista, ha degli schemi ben precisi, è un pubblico a cui non si può richiedere un'elaborazione complessa alla realtà. Guardano perché c'è la Barale, perché c'è Emanuele Filiberto e potrebbe essere, mi faccio portatore di questa ipotesi, una maniera per spiegare un problema complesso delle persone che non hanno voglia di complessità. Non accetterebbe nemmeno questo tipo di equazione? Io personalmente no. Può essere che possano essere presenti in studio e fare i soliti talk show per parlare di, ma stare lì in mezzo a questa gente e non so, sfruttarlo anche per la loro popolarità è una cosa che io veramente trovo amorale. Per loro è come la formaldeide per un cadavere, se ogni tanto non fanno queste cose scompaiono. Fermiamoci un istante, diamo il traffico, poi continuiamo. 800240024, cerchiamo nel breve tempo possibile di capire esattamente di cosa si tratti. Mission, un programma televisivo che andrà su Rai 1 il 4 dicembre, preceduto una grande polemica. Si tratta di vedere i soliti personaggi, protagonisti comunque della TV di reality, occuparsi di qualcosa che è socialmente molto importante e molto delicato. Nino Sergi, buongiorno. Buongiorno. Nino Sergi è presidente di Intersos, l'organizzazione non governativa che ha partecipato alla realizzazione di Mission. Visto che l'ascoltatrice Ariella che ha chiamato ha riposto il problema dei soldi come problema prioritario e una delle accuse che vengono fatte, che in realtà ciò che verrà come diciamo ricavato da questo tipo di operazione televisiva non andrà direttamente alle persone che vengono rappresentate, su questo cosa ha da chiarire, cosa da dire? Cioè noi, le mamme che le donne violentate che vediamo lì recuperate non vedranno una lira del fatto che loro hanno ospitato la Barale. Ma su questo io mi domando come mai in Italia c'è sempre qualcuno che afferma cose infondate. Io faccio domande e le rispondo. Su quale base si può dire che i soldi non verranno destinati? Ma lei ci dica, io ho fatto una domanda. Primo, no, ma benissimo, ecco, no, ma io mi domando. Primo. Ho posto i termini della polemica, lei me la chiarisce. La questione dei fondi non era prevista all'inizio, è stata decisa in una riunione a fine agosto di quest'anno, per dire quanto la questione dei fondi sia prioritaria, insomma c'è stata perché si è valutato che valeva la pena una trasmissione di questo tipo aggiungerla. Secondo, i fondi saranno destinati precisamente, Intersos Bardi le destinerà precisamente sulle realtà che gli telespettatori vedranno. E ovviamente sulla base dei fondi sarà o solo la scuola nel villaggio degli sfollati in Congo o il centro per bambini soldato che sono stati sfollati. Comunque se lei mi dice ci sarà trasparenza totale non c'è nessun problema con questo, penso che metta a tacere ogni voce polemica. Alla fine faremo un rendiconto pubblico di come destineremo quello che abbiamo preso. Ma assolutamente sì, anzi se il 324 può essere diciamo lo strumento perché il rendiconto pubblico, noi siamo molto felici. Faccio modestamente il giornalista, poi ma sono gli strumenti. Non era con lei, era con la brava, perché sarà una persona straordinaria, però come faceva per affermare questa volontaria, questa cooperante, che i soldi non saranno destinati? Se lo domanda. Non è l'unica a domandarsi, ma si domandano anche persone, diciamo, che nel campo della cooperazione hanno dedicato una vita. Eugenio Melandri, buongiorno. Buongiorno. Direttore della rivista Solidarietà Internazionale, che ha criticato fortemente questo programma, chiamandolo pornografia umanitaria. Si presenti lei, Melandri, perché è una persona conosciutissima in questo campo, ma ho una pagina intera di sue qualifiche. So che nel 74 è entrato nei Missionari Saveriani, ha frequentato e si è laureato in sociologia a Trento, è stato presente dappertutto negli ultimi decenni, laddove c'è stato bisogno di occuparsi di persone che non avevano voce. Non so se è sufficiente. Ma io non c'è bisogno di fare tante presentazioni. Io intanto saluto Nino Sergi, saluto la dottoressa Lucci, eccetera. Il problema di fondo, guardi, io ho chiamato pornografia umanitaria e nell'articolo che ho fatto su Solidarietà Internazionale, me ne può dare atto anche Nino Sergi, non sono partito tanto dalla realtà di Mission, tanto sono partito soprattutto dalla realtà di certe pubblicità che vengono fatte per raccogliere fondi. Certe pubblicità, vede, certi modi di fare comunicazione sui problemi dei poveri del sud del mondo, dei paesi più impoveriti, dei profughi, dei rifugiati, i soldi sono importanti, ma c'è una cosa che è più importante, ed è la dignità delle persone. Io non voglio stare tanto a fare polemiche sui fatti, è stato fatto un SED, non è stato fatto un SED, la cosa eccetera. Faccio polemiche su questo, cioè sul fatto che in questo modo noi facciamo una comunicazione sulla problematica dei poveri, di quelli che sono sfortunati nella vita, eccetera, che ruba loro la dignità. Non li facciamo parlare in prima persona, abbiamo bisogno di mettere sempre davanti dei farlocchi, come giustamente chi li chiama lei, tipo la Barale, Emanuele Filiberto. Vabbè, è oggettivo questo, è il loro mestiere farlo, poi non so. Non c'è problema, non è cosa. Abbiamo bisogno di mettere davanti queste persone e abbiamo bisogno assoluta, perché si dice che altrimenti non si fa comunicazione, non sono, le cose non sono notizie. Altrimenti l'abbonato in prima fila, addormentato dalla sua catalessi, non si risveglia di fronte al problema, quindi fagli vedere Emanuele Filiberto. Ma vede, questo discorso qui non è solamente un fatto, diciamo così, di carattere ideologico, è un po' come dire, il risultato di un'esperienza che io personalmente, ma tanti altri hanno fatto, soprattutto incontrandosi con l'Africa. Io ho trattato soprattutto questo, e incontrandosi con l'Africa noi ci siamo imbattuti in grandi studiosi africani, in grandi uomini africani, che ci hanno detto che certo modo di fare aiuto, di fare cooperazione è sbagliato, perché nel momento in cui dà dei soldi ruba della dignità. Mi riferisco in maniera particolare ad un grande studioso africano che si chiama Joseph Kiserbon, il quale, parlando della colonizzazione, dice che la colonizzazione è stata un enorme etnocidio punteggiato da alcuni genocidi, nel senso che innanzitutto è stata rubata l'anima all'Africa, è stata rubata l'anima alle persone. Allora, Eugenio Melandri, scusi, visto che siamo vicinissimi alla chiusura e voglio che lei mi dia un messaggio preciso, se lei potesse rivolgersi direttamente al direttore generale della RAI in questo momento, cosa chiederebbe in nome di tutti gli anni che ha dedicato seriamente e concretamente la sua vita a questi problemi? Rettificare il programma, non fare reality, chiamare persone a supporto della correttezza del racconto di questo reality, o mandare tutto a quel paese, dice, parlate di altre cose, se ne parlate, diteci a noi come bisogna parlarne. Ma vede, innanzitutto vorrei dire che nel momento stesso in cui la RAI lancia questo programma che si chiama Mission, toglie una trasmissione che si chiamava C'era una volta, che raccontava proprio, faceva raccontare dalla gente i problemi. Questa viene cassata. E vorrei dire questo. Vorrei ma dire... non ci si vendeva sopra l'adesivo per dentiera, il deodorante intimo, queste cose qua, era un po' difficile vendercelo. Voglio dire solamente questo al direttore della RAI, alla RAI, anche agli amici di InterSoce dell'UNHCR. Vorrei dire solamente questo. Cerchiamo di fare in modo che nel momento in cui comunichiamo queste cose, raccogliamo queste cose, non dobbiamo fare in modo che gli africani, i poveracci, eccetera, siano di sfondo degli altri, perché questo è rubare ancora la dignità. Si daranno loro dei soldi, ma si creano dei mendicanti. Questo c'è le chiedo scusa, ma c'è una grande studiosa africana che si chiama Aminata Traoré, la quale dice: se ci sentiamo mendicanti, ci comporteremo come mendicanti. Senti, Eugenio Melandri, la mattina dopo la prima messa in onda di questo programma, lei sarà con noi in studio, commenteremo quello che è stato, se non ci sarà prima altri motivi di ripensamento. Alla prossima.